mangio banane e citrioli, cucumari, chiuso gli sportelloni del corridoio del Carverio, li ho chiusi perché ho ogni fulmine illuminava la casa. Sì, vabbè, c'era un pezzo più seguito, che ha spento tutte le radio e niente, sta usando solo una radio, l'altra. Poi però stavo andando con il portatilino, quindi non sentivo tutti, No, io le VLU le lascio accese, anche se c'è il temporale, c'è l'antenna che non ha problemi, ma quella, le antenne grandi, anche l'HF tengo acceso, ci sono dei fuori, ma la Mantova, quella roba lì la stacco, addirittura staccato da fuori, capito? Perciò lo stacco antenne, l'ho staccato direttamente da fuori, me l'ho ricollegato stamattina, ricollegato, girato stamattina, mi sono fatto l'impianto così, dal commutatore esterno a quello interno ci sono altri 10 metri, quindi insomma salva sempre la vita, non è diretto come era Carbonazzi, e ci ho rimesso tre radio, computer e tutte cose. Va bene che va bene, nulla, per il resto siamo qua. Va bene, sì. No, io stavo provando dopo questo, ho svoltato le 509, ho messo le 519, ho provato, ma cambiamenti non ce ne sono stati. Adesso, dopo domani, mi faccio dare le altre valvole ad Antonello e proviamo se sono quelle, dai. Se monta, cosa monta, le 509 o le 519? Devi rimettere le sue, perché altrimenti ce la fai la taratura lanodica e i risultati non ne vedi. Allora, dovrebbe essere 509, però la pilota non mi ricordo se cambia o se sono tutte 5 giuste, uguali, dai. No, tutte 5 giuste sono. Stai attento che se la pilota è diversa il problema lì è, devono essere tutte e cinque uguali, devono lavorare tutte e cinque in serie alla grande, capito? Se quella la pilota è diversa il problema può essere lì, questo ti dico per esperienza vissuta, perché anch'io avevo fatto la stessa cosa in un, nel miniere che c'ho ancora dentro l'armadio della 27 enorme, grande, che però le valvole le avevo tolte, le avevo regalate a Gavino, quello di Porto Torres, tanto io non lo usavo, ma ti parlo di qualche anno fa, e avevo fatto la trottata di metterle, il mio montava le 509 e io metto la pilota 519, invece mi avevano detto che non va bene perché c'era praticamente modificare la nodica dell'ingresso sulla valvola, capito, la tensione c'era modificare, altrimenti i risultati non li vedi. L'ho fatto anche io. Allora, praticamente l'ho smontato tutti e cinque e la pilota era differente dagli altri, quindi come potrebbe essere quello, solo che di 519 ne ho solo 4. Adesso vediamo cosa mi dà Antonello, se ha le 19 o le 509. E provo a mettere tutte e cinque precise, sicuramente sarà quello, perché a parte che non sono riuscito a leggerlo bene nella pilota, però ho notato che c'era qualcosa di differente tra le altre, capito? Te ne accorgi, sì, perché le 509, o correggimi se sbaglio, o le 519, mi pare che siano un pochino più grosse la differenza e un pochino più corte. No, non per quello, no. No, diciamo che sono similari. È l'interno della valvola che sto dicendo, che è differente, la pilota era differente da quelle che sono in serie. Allora ti la devi mettere uguale, mettilo uguale perché potrebbe essere quello il problema, capito? Potrebbe essere quello il problema, quindi devono essere tutte e cinque uguali, lavorare in serie, tranquilli e serene, perché quella ti dà, praticamente è quella che fa il preaccordo sulle altre quattro, e se quella sta lavorando male, lavorano male anche le altre quattro. Vabbè, adesso vediamo, sta lavorando a 500 watt, non è che sta lavorando male, è che potrebbe dare molto di più. Il cazzo, cioè se ne deve dare 700, la 500 sono 200 watt in meno, sono due segnali che stai perdendo, capito? Quindi è molto importante, soprattutto che il lineare lavori in accordo corretto, perché oltre a lavorare male è in disaccordo, è in disaccoppiamento tra appunto la nodica della valvola, e quindi non va bene. Il ma ti controlla bene? Io cioè, non mi ricordo, perché culinare io l'ho avuto, ma tanti anni fa. Me l'aveva dato la buonanima di Bartolomeo Chisiello, lo chiamava la vera maniera. Ed era eccezionale, guarda, era una cannonata. Io arrivavo anche col, non mi ricordo se c'avevo un perception base o una Fayette base, non mi ricordo. O addirittura un presidente, quello base, Windom, non me la metto. Peccato, c'era un accoppiamento favoloso, arrivavo con 5 watt, 4 watt e mezzo, anche a 700-800 watt di riuscita. Sì, sì, ma infatti questo qua lo sto utilizzando con 5 watt, non è che... E poi una cucchiata. Adesso faccio una prova, lo stacco e vado solo di baracchino, vediamo cosa, quanto cambia di tutto. Aspetta, eh. Hola, mi sentite? Sì, Antu, sì. Allora, aspetta un attimino, scusa Antu. Allora, qua... Metto 5 watt, ok? Anzi, neanche 5, sì, sì, 5 watt 2 watt. Guarda un pochino, queste sono le basi dell'apparato, Poi ti faccio una prova con tutti i watt dell'apparato, ok? Sì, anche ti sento unificante, bene. Tanto hai dei picchi allucinanti, modulazione vai da 7 a 9, forse perché c'hai i watt bassi. Metti tutta la potenza della radio. Ok, adesso mettiamo tutta la potenza della radio, aspetta. Ora, adesso tutti i watt della radio ho scala a 50, mi sta segnando ora 20 watt, quando fischio invece va a 40 watt. Già si vede perché vai da 9 a 9 più 10. Tenendo conto che sulla portante, perché io valuto il segnale sulla portante bianca, quindi senza il PEP, vai da 9, quindi liscio così, sì, Santiago 9, mentre quando agganci sei 9 più 25, sono tanti, certo sono tanti Tino. Vedi, adesso sono con quelli dell'apparato, solo, e diciamo che sono circa 18 watt, 20 watt modulati, ora 20 watt, dai. 20 watt sei 9, non picchi quasi a 9 più 10, però ti ripeto, io calcolo la portante bianca, quindi per me è 9. Ok, quindi 9 liscio e 9 più 25 è con l'amplificatore inserito. È tanta roba, sono tanti, è un incremento molto molto alto. Dimmi Anto, qualche controllo volevi? Non adesso, fra un pochettino te lo chiedo. Aspetta, ehi Anto, ti abbasso tutto, guarda qua. Zero watt, proprio abbassato tutto. Il portante bianca 6-6, però no, quando parli il picco di modulazione c'è perché i watt salgono, vai a 9, 8,5 9, capito? Bella storia. Rimettiamo 5 watt e poi proviamo a attaccare. Attenzione che questo è il 430 che ha revisionato Fabri, lo Smith è stato fatto con le sonde, quindi è perfettissimo senza nessun problema, capito? Facciamo un segnale vero e proprio. Sì, vabbè, adesso deve salire nuovamente, pian piano noterai credo la dicitura dello Smith, ti dirà qualcosa in più. Andiamo, sta salendo piano piano, più scalda più va, non so se stai notando. Sì, proviamo a vedere se è scalda qua. Ammazza. Va bene, Anto, adesso sì, va bene. Ma il 360 non l'hai attaccato ancora? C'ero in deposito, ma adesso ho dimenticato la regala in onca. Sì, guarda, cazzo. Il 360 con l'amplificatorino arriverà a Dio qua. Già sì, 9,15, sì. Alla grande vai più per bene, tenendo conto che la potenza tua è quanto una valvola di quella che sta usando Tino, però insomma, va molto bene, sì, va benissimo, alla grande, tutto K di Rosmetro. aspetta che se no metto la scala più bassa e mi volo smicker oltre. No, vabbè, adesso è media potenza, quindi è bassa. Neanche 200 watt. Scusati che mi hai chiamato. Anna, sta dicendo? Ora, ho detto, ma adesso che è a casa, eh? Ho detto che esco intorno ai 250, non di più. Vabbè, 9,15, sì, 9, quasi 9 più 20. No, ma faremo le prove quando provo a cambiare le altre valvole, perché effettivamente ci sarà un incremento, perché c'è una diversa. Sì, se c'è una diversa, mettila uguale e poi mi dirai, avevi ragione. Se è buona la pilota che è uguale e lineare lavora in serie bene, stai più certo che l'accoppiamento te ne accorgi subito la potenza, te ne accorgi subito. Beh, aspetta che ti cambio il radio, metto l'altro microfono. Siamo qua. Ok. Ricordati di portare quel microfono a farti fare quell'inversione, Mianto. Non lo usare così, eh. Ti ha sempre potente, dottor Vanzaro. Ehi, l'amico mio. È romantista, non ci sei andato mai. Sei all'UA che va, lascia perdere. Secondo te qua si può raccogliere l'UA con quell'incendio, già lo sai, no? Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, tu sei molto vicino. Ma neanche qua ne ho visto, E neanche nella mia zona, nonostante non sia arrivata proprio la nube tossica, però neanche qua ne ho visto fino a fare l'UA. Zona mia. Ehi, ehi, è un casino. E vabbè, stavo già stavo facendo altro, mi stavo facendo un po' di rattuppi a casa, perché da sabato mi metto mano e inizio a miaccare tutto. Attenzione, il bulldozer si ascolti qua, che è piccolo, la porzioncina cambia l'asso. Ehi, già ascolto, ma se stava a essere potente, bello, Ma devo attaccare altre cose. Per me devi abbassare un po' perché sei saturo, io sono vicino, ciao ti. Lo so, sto provando una lineare che mi hanno prestato. Come va la tecla? Ciao, come funziona? Sei saturo o nasino, non riesco a capire bene. Però il segnale è fortissimo, 9 più 20. Ho abbassato la tacchezza. Sono un presidente con il 43, l'MC 43. Presidente con l'MC 43, io ti sento cupo e nasino, però non riesco a capire se è saturazione, Massimi. Per me è saturazione, per me devi abbassare un po'. Vabbè, noi siamo molto più vicini però, Però ti sento male, Tino. Beh, con questo microfono invece ha cambiato qualcosa? Ha cambiato qualcosa, sì, questo è migliore, però se è sempre la radio non è buonissima. Ciao! Ciao, signor Bombolo, a me! Allora, oggi faccio la radio di Drodio. Va bene, dai, allora mettiamo questo. Ecco, questo va meglio, questo è perfetta, questa ti sento bene. Ehi, Artù, vai proprio, hai detto la parola giusta. La radio di Drudio è bassissima. Vabbè, mi devo accontentare di questa, dai. Già funziona lo stesso. Ah, funziona tutto, le portate a ascoltarci, cava. Ma dai, riesci che andò a... come ti diciamo? A mangiare. È vero che tu mangi l'orario di tirare. Vai, tiro, riprendi e fai tirare. Ciao, Manto, ciao, buona carica. Vai, Cla, poi ti devo fare una domanda, Massimiliano. Vai, Cla. Fai la domanda a Bulldozer City. Ciao, Manto, un saluto, ci aggiorniamo. Ok, vai, Tino. Adesso c'è bella forte la valvola, bella calda. Come? 9,10 sta arrivando, Anto, perfetto. Già va bene, Anto, già va bene. Ma è partito il fuoco dalle partiture, Massimiliano? Non sai il fuoco che è partito. Dalle parti... dove c'è la cosa, no? Dove vado io, dai? Dove vai tu? Perché ho visto, dovevo tagliare gli alberi, ma alcuni li ho trovati mezzo incendiati. Io dove vai tu non lo so, è partito il fuoco, differente sui giammari, su Gapannone, dove fanno la differenziata da plastica, cartone, come ti chiama? Ah, no, vabbè, già, allora stiamo facendo un po' di confusione. Anche vicino a casa tua è partito. Già lo so, ma quello là è la peggiore, capito? Perché in poche parole tutta quella ruba è passata sopra casa e non si può raccogliere niente. Io ho passato la moto zappa nell'orto, melanzana, ci ho buttato tutto. Sì, quella che c'era, ho capito, lì vicino a Caglia, dai. Oh, dove c'è la caccia struzzi 2000, cosa vicino a carica. Ah, tutti, a Trunco Reale, cazzo, dove c'è il mattatoio nuovo, di fronte al mattatoio, non c'è lo stabilimento della differenziata, ma è parte di un capannone, dove è morto quel ragazzo, cioè non è che stiamo dicendo niente di male, no, lì, c'è stata una ruba tossica per una settimana, è chiaro che chi è vicino, Massimiliano ha fatto bene a passare la moto zappa, l'hanno passeduto, ma non solo lui, tanti altri che ci avevano l'orto lì hanno imbassato il trattore, cioè non hanno raccolto niente, capito? Perché è pericolosissimo. Sì, mi sono sbagliato io infatti, volevo dire, c'era ottavo, ma c'è voluta, volevo farti lì. Ho capito. No, intendevo l'altro io comunque. Non lo so, perché altro fuoco è partito. Vicino a casa di tuo e di Ciccio, là, senza fare nomi. Davvero? No, non lo sapevo, ma quando questo? Ma poco? Ma vicino ai campi, un po' prima dei campi. Ho capito in qualche dove stai dicendo, ma da molto? Due settimane fa. No, non sapevo niente di questo. Vabbè, io in queste zone, già lo sai, è zona mia, ma è come se sono le strade, io ci bazzico molto molto poco qua, capito? Andare. Beh ragazzi, scusate, io vi devo mollare, perché sono arrivati nuovi concorrenti per il lancio. E tanto dove sono tu, io a volare i pilari. Va bene, ciao Tino, buon pranzo, buon tutto, vai là. Ciao T, tante cosce belle, buon pranzo, saluti a casa e alle brucimine, ci aggiorniamo. Avanti Massi. No, io non mangio a questo, le mangio più tardi, ma sai, la casina è casotti, saluti, baci, bacini, facciamo casotto. Ehi, a fai bene, andiamo. Gava, ok, ci sentiamo allora, dai. Ciao Tino, alle prossime. Ti a me Claudia, com'è? Ciao, dopo. Ciao, come aperitivo, mi raccomando, un venerdino buono, sì, e come digestivo un brancamento, eh. È quello che può venire a fare. Sì, se arrivi da casa voglio ridurre il rami. Ciao, più tardi. Ciao. Tutto a posto, Massimo, faceva un po' di pulizia dietro il cavello, nel corridoio. Prendo un po' di polvere, un po' di roba, cioè, lì c'è sempre molta corrente. E poi niente, ho una pulitina fuori in veranda, e mi sono tolto tutte le radio e spostate, e passato il panno perché la polvere sotto si mette, se no fa lana e poi mi casina le ventole, capito? Hai fatto bene, no, io niente, da me mi ha fatto un po' di filo. E niente, mi sono tappato un paio di buchi che avevo, quelli della cucina dove avevo le stufe, me li ho tappati. E poi cos'è che ho fatto? E poi ho messo un po' in ordine quella casetta dove c'ho tutti gli attrezzi, a chi non si vuole manco abbassare. Una birretta e via, là. E io devo sempre farlo, ma col problema che ho la schiena, ci ho provato, ma non andava. Minciola, non riesco a far nulla. Adesso vediamo, con calma, pagherò le vetricchie. Non la faccio finire, almeno, insomma, l'intonaco, queste cose così, con la stanza. Ci sono troppi buchi, ogni tanto vedo qualche cacchina di troppo. Anzi, oggi ne ho visto uno anche che era un pochino più grande del normale, quindi sicuramente c'è qualche nido di troppo dentro l'insenatura dei cantoni e scendono a vedere se c'è roba da mangiare, ma è tutto pulito, ordinato, non c'è niente che li attiri, quindi però scendo. salgono, scendono, capite? Devo tappare perché lì devo mettermi il pellet, devo fare altre cose. Non va bene. Anda, quando vuoi prendi il materiale, lo facciamo, non devi pagare nessuno. Un sabato vengo e te lo faccio, problemi non ce n'è. Ah, chi ancora belle che c'è comparendo? Lo vedo il sacco, tu sei fulminato, sì. Non c'è idea, l'ho preso lì a... dove vado sempre a Canica, ne ho preso 10 sacchi e me li ho già messi da parte, giusto per iniziare il freddo, poi vediamo se diciamo, lo trovo a buon prezzo. Non ho altre possibilità, io già faccio, smonto tutto l'impianto e mi faccio quello a legna, io lo sai, il genero di mio fratello fanno tutto, però me l'ha detto, mi ha detto qua, cioè rismontare tutto l'impianto tuo, metterne un altro a legna, è un casino, questo è un casino, farò sacrificio, cosa vuoi dire, ma lo devo prendere adesso. Mi ho preso 10 sacchi questo mese, se prossimo mese ne prendo altri 10 sacchi. Iniziamo a scaldarci, dove ti dico, purtroppo è andata così quest'anno, cazzo mi costa il doppio, un casino. Sì, Massimiliano, c'ho tutto, già devo comprare. C'ho l'intonaco pronto già, ne ho 4 sacchi. 4 sacchi in tronco pronto, addirittura sabbia anche un pochino più grossolana, l'ho preso da Capolino, già tutto pronto il materiale, tutto è che io ci ho provato, ma non fa, mi ingessa subito, non riesco più a muovermi, mi piega, infatti mi sono fatto i cavalletti con la metà tavola, tutto, c'ho tutto quello che serve per, ma sono 4 buchi, non la gente mica nulla. C'ho 4 buchi, 4 fessure, 4 cagate, un'oretta ha fatto tutto. Vabbè. E tu cosa stai facendo? Facendo sapori. In cucina giù avevo spostato 2 stufe, quindi avevo fatto 2 buchi. Me li ho tappati perché devo iniziare a biancare, capito? Ma c'aveva tutta la casa. Quindi inizio dalla cucina, che è la più grande, qui faccio tutta la cucina, bagno, la tromba delle scale e poi passo nel piano di su. Sono 4 camere su, non è che sia tutta questa grande cosa. Bagno solo per 2 camere. E quindi piano piano inizio, classi, no, da bui, un casino. No, devo per forza biancare qua. Sono 2 anni che non la faccio. Non è sporca, però una rinfrescata anche per l'odore e tutte queste cose qua. Là. No, non c'è il problema, già lo sai, no. C'è un'oretta di lavoro, vengo e te lo faccio. Un sabato ci organizziamo, mi dici quando sei pronto. Vengo e te lo faccio, mi prendo un secchio di attrezzatura, vengo te la faccio. Tutto ciò, Massimi, c'è un caldarella, paletta, la daroccia, va giù tutto, ho comprato tutto proprio perché me lo volevo fare io, ma no, non fa, la schiena non regge, le gambe stanno andando a farsi fare in culo e quindi non fa, capito? Purtroppo l'artrite sta aumentando, adesso c'è appuntamento, mi ha preso l'appuntamento Ilaria. Vediamo un po' cosa mi dice, perché veramente sto male, non ho più la grinta di prima, non posso piegare, non posso fare niente, nulla, c'ho le mensole, quelle coprifinestre in legno, comprate con le staffe da mettere, questo non aiuta tutto, nulla, veramente, vabbè, pazienza, c'è però già, c'è sempre qualche amico che mi dà una mano, dai. Quindi appena si informa che hai fatto le cose che devi fare tu, pensano che ne un sabato mattina te ne vieni qua e mi tappi questi 4 buchi, no, sono tranquillo perché ogni tanto vedo il passaggio di qualche topolino, ma quello che ho visto stamattina è che io entro spesso a pulire, a fare, capito, a mettere in ordine, ma in ordine, però stamattina ho visto una cacchetta un pochino più grande, quindi sicuramente è sceso qualche troppo più grosso a cercare da mangiare per i piccolini. Medicina non le sto mettendo perché sennò cazzo mi muoiono dentro e fatemi viaggio e allora KK. No, non ce n'è problema, oh, sabato, vai cosa faccio, se mi stai dicendo sono quattro buchi, cosa ci vuole a farlo, un attimo, là. E vabbè, piano piano, là. Piano piano iniziamo, ma chi sa, piano piano, ti invito il materiale, te la fai bene, te la rifinisci bene, e ti può servire come dispensa, l'importante è che non entrino animali, capito? La puoi usare per qualsiasi cosa, una cena, un pranzo, al posto che buone quattro macchie dentro e va bene. No, volevo fare una seconda cucina per quando friggi, per quando fai, capito? E nell'altro giardino apri una finestra, progetta quello, per quella io l'ho trovata già così, e apri una finestra, capito? Però volevo finita perché è anche abbastanza grande, molto interessante. Una seconda cucina e niente, anche sì, come c'ha Walter, una tendenza per fare i spuntini, capito? Puoi fare anche i spuntini invernali, capito? Quindi anche perché l'estate è una ghiacciaia, è freschissima, d'inverno è fredda, quindi però una volta che si intemperano non ve ne è freddo il tenghia, capito? Anche mattoni, mi ha dato quattro pacchi Fabrizio, anche la dottoratura mi ha regalato, lui mi aveva, abbiamo liberato tutto lassù, altre tre parti ce l'ho io, quindi volendo si può anche sistemare bene, ma ti ripeto una signora, io uno non sono del mestiere, se vuoi fare un buco andare, però ci ho provato, ma la schiena non mi regge. Ehi, ma lì con quei quattro pacchi mattoni non fai nulla, tra devi prendere mattoni giusti che ci vogliono per fare tutta la metratura della camera, devi prendere battiscopa, e se vuoi fare una cosa fatta bene non fai con quattro bacche di mattoni, capito? Ma io quella lì piano piano l'avrei tutta rifinita bene, fatta proprio bene bene, aperta una finestrella per la luce, una volta che poi ce l'hai tutta pavimentata, ti fai l'impianto elettrico bene come deve essere fatto, tu vedrai che quella lì la usi parecchio. È già pronto, Massimiliano, c'è acqua e luce dentro, se c'è la lavatrice c'è tutto il cantiere per fare le scatole, c'è col corrugato, c'è la passare il filo, ma io gliel'ho fatto così con due prese, ho solo usato, capito? Ma c'è acqua e luce già dentro, non li va nulla. Sì, beh certo, bisogna che non battano quelli, però quei mattoni mi servono per fare dei corduri, una pavimentazione forse bastano per pavimentare il corridoio del cavillo, capito? Ma ti ripeto, non essendo nel mestiere, non avendo voglia e forza per poterlo fare, già abbandonando tutto, ma materiale ne ho uffa, capito? Materiale ne ho, non c'è problema. Non problema, anche la betumiera abbiamo tutto. E allora è a posto, problemi non ce ne sono. Tutto abbiamo, Massimi. L'unica cosa che non ho, che mi sono sempre dimenticato, ma la spostava sempre il mio vicino, perché c'ho Picco, Rastrelli, per giardino, per ghiaia, per tutto. L'unica cosa che mi dimentico è Giuseppe di comprare una bara. Bisogna che me lo segno quando scendo a Sassari, passo al Vico e compro una palla con un manico e butto il resto qua. Non ti dico cosa ho comprato, cosa ho speso, perché come giardinaggio va giù tutto dalla valvetta, forbici per quelle grandi, forbici per portare, tutto roncola e di tutto, va giù tutto, senza raserva, del cespugliatore, tutto. E la roba per l'emulatore è lo stesso. In linea di massima c'ho lo stesso tutto, non cambia niente. E allora organizziamolo, facciamo, problemi non ce ne sono. Là, ti lascio che adesso mi faccio qualcosina e iniziamo a avviare anche il pranzo. E niente, là, due passaggi già me li ho fatti oggi, dopo un bel po' ho acceso di nuovo il Saturneco. E va bene, là. Ok? Dai, ci sentiamo, salutoni a chi sta ascoltando, buona domenica a tutti, una abbraccio, Cla, alle prossime. Ciao Cecilia, piacere mi ha fatto averti ascoltato, come sempre. Un abbraccio anche a te, a tutti a casa e già. Ciao ciao, aggiorniamo via motozappa. Ciao. Buona domenica, buon pranzo e buon tutto.